Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. 8:18. Ci siamo anche oggi, cari ascoltatori. Caro Oscar. Siamo vivi, siamo qua. Siamo vivi. Eccoci. Siamo vivi in questo giorno. Hai visto i Cruz di recente? Sì. No, c'era la vecchietta che risordiva sempre, ancora viva, ancora viva, cioè, con un tono sarcastico, rivolgendosi a coloro di cui sottintendeva la volontà. Genero, esatto, certo. Vorresti che non ci fossi, e invece sono qua, come sempre capita in alcune famiglie, in percentuale più diffusa di quanto non si immagina, ma invece no, perché la famiglia è il luogo dell'amore, dove si impara a capire che ciò che non ci piace, questo almeno è il mio motto, ciò che non ci piace spesso è solo ciò che non abbiamo avuto la forza o la voglia di capire. Io la vivo così. Così disse il saggio. No, no, bella, ma io la vivo bella, davvero bella così, nel senso che ho capito. È una bella frase. Io sono cambiato, sia quando mia moglie, sia capito anche con la prima, che poi non c'è più, e poi mi sono riposato. Ma e con i figli, cioè i figli sono per me una sfida permanente, proprio in questo caso qua. Io di carattere sono completamente diverso, avrei reagito tante di quelle volte, invece impari, perché ti pone il problema, ma non è che avrai mai capita questa cosa. Sì, almeno. E il bello dei rapporti è proprio quando scopri che automaticamente ti viene la voglia di metterti in discussione e di non reagire, cosa che altrimenti con quelli di cui te ne frega meno invece fai automaticamente. Comunque, sì, non voglio. Apriamo così la seduta. Scrivilo, dillo a Oscar, dillo ad Alino. No, è solo per dire che oggi per me in realtà è un giorno molto importante per gli affetti. Sì, lo so, non è adesso, pensate, è il santo del giorno. No, oggi è comunque San Ciriaco, patrono di Ancona. Che da Gerusalemme poi viene traslato ad Ancona, va bene, e tanti altri santi, Afra, Agapio, Sicilia, Secondino, ma di tutte le cose da ricordare oggi per me, per la mia storia personale, per da dove vengo e così via, oggi, non a caso, giornata mondiale del calcio proclamata dalla FIFA qualche anno fa, perché oggi è il giorno commemorativo del grande Torino che si infrange con l'aereo nel 1949 in un giorno di tempo terrificante con biturbo elica sulla collina, anzi proprio sul basamento della basilica, e quelle 31 vittime sono la squadra della leggenda del calcio italiano che dal 42 ad allora aveva vinto tutti gli scudetti. Stiamo parlando di gente come Bacigalupo, Gabetto, Valentino Mazzola, Rigamonti, due fratelli Ballarin. E su quell'aereo morirà, tra l'altro, anche il papà di Giorgio Tosatti, grande giornalista sportivo. Si salva per miracolo perché c'era la cresima di un nipote, Nicolò Carosio, che doveva essere pure lui su quell'aereo. Quindi, insomma, una cosa terrificante, senza eguali. Pensate che il campionato lo vinse il Torino perché nelle quattro domeniche successive tutte le altre squadre per rispetto giocarono con la primavera in campo e dissero la classifica si ferma qua, ha vinto il Torino perché il Torino è una leggenda. Allora, non perché io sia torinista, ma perché la storia del calcio italiano mondiale è fatta anche di queste cose qui e di valori all'epoca di giocatori che erano. Il mondo è cambiato, quindi non sto giudicando, non era meglio, non era peggio, ma quella era un'Italia contadina, poverissima, in cui c'erano dei campioni che venivano su, se li paragonate oggi muscolarmente non terrebbero 5 minuti il fiato di quello che succede oggi in campo, però vedete bene nelle immagini in bianco e nero che facevano delle cose a volte. Ma sì, poi di recente è successo una squadra in Colombia, ogni paese ha le sue tragedie sportive, no? Annientate E vabbè, ci tenevo solo a dirlo perché secondo me è una cosa da ricordare. E detto tutto questo, oggi chi voglio fare ricordare per il compleanno? Oggi è un compleanno di una gran donna, secondo me, Marella Agnelli, che ha saputo tenere nel silenzio cose che chiunque altro sarebbe fatto pagare centinaia di milioni in libri e scoop ai giornali scandalistici. Donna Marella è di un'altra classe, per dire la verità. E per usare l'antipodo, anche auguri a Rocco Siffredi, che invece è un altro che ha un'altra idea di come si, tra virgolette, comunica, per così dire. E vabbè, insomma, alle 8 l'Italia è bella per quello, comunicazione a 360 gradi. Hai fatto anche tu i complimenti per il triplet della Juventus? Ma quelli io li do per scontati, perché cari miei, certo, c'è poco da dire, la superiorità sportiva sul campo. Oh, pigliarsi la palla, no infatti certo, i napoletani non so come possano, vabbè, però invece come se tirai Higuain, cioè che dice: oh, ma ragazzi, mi sono andato via per vincere. La conferma è come si vede fino a questo momento. C'è tutta. Certo, con Cristiano Ronaldo sarà tutto da vedere poi. Ah, perché non è finita? No, va bene. No, ma non è finita mai, lo sai com'è. No, poi partite uniche, le finali. Ma va. Ah, tu lo dai così. Ma va. In effetti, per quello che si è visto in campo, è più continua. È l'anno del triplete. È l'anno del triplete. Va bene, dai, rassegniamoci così. Allora, una vita in bianco e nero. Alle 8:23 oggi minuti. Trovate il 7, sì, legato a quella sera, che si pone una domanda di quelle fondamentali della storia. Cioè, ma come si fa a diventare juventini? Io me lo chiedo da la quando domanda sono è perché, nato. La, giuro, è la copertina di 7, perché si diventa juventini? Ci saranno interventi di vari psichiatri, immagino, all'interno, sono figli effetti di traumi complessi, ma bisogna essere solidali, comprensivi. Credo ci sia anche quel servizio di quella clinica in Austria dove se vai guarisci in 20 giorni. Sì, non c'è dubbio. Sì. È una di quelle proposte tipo 7 kg in 7 minuti, cioè queste cose qua si diventa juventini perché è una forma di trasumanazione. C'è chi si è da piccolo interrogato su Schopenhauer e Nietzsche e chi ha detto: io ne faccio a meno, e c'è il gol bianco e nero. Oggi tra l'altro il caso, c'è questa la decisione del GIP di ieri sull'indagine di uno dei punti fondamentali del calcio italiano, cioè la infront di Marco Bogarelli, che è consulente, fornitrice, compratore dall'altra parte coinvolge della Lega, del Serie A, che coinvolge Galliani. E il PM ha detto: questa è un'associazione a delinquere, gare truccate, stiamo parlando di cose molto serie sulle quali io ho scritto articoli molto duri. E il PM dice: no, qui tra la infront, la Lega e alcuni presidenti che dominano la Lega, tra cui anche Galliani, c'è una vera associazione a delinquere. Il GIP, una donna tra l'altro, dice: ma no, ma queste sono le lobby del calcio, non è un'associazione a delinquere, eccetera eccetera. Quindi il giudice le indagini preliminari e di un'altra idea. E io ho un po' sorriso, perché di fronte a cose, ripeto, gravissime, gara truccata dei diritti del calcio, che è il pilastro delle risorse finanziarie del calcio italiano, dire: ma no, è una lobby, è una robetta. Cara signor GIP, io rispetto la sua decisione, ma mi sembra un pochino così, un po' compiacente come tesi, ecco. Comunque, noi, dando il numero di telefono del solito 800 24 00 24, adesso non ci chiamate per parlare di calcio, di Champions League, per carità, no. Perché si diventa juventini, non chiamateci. No, volevamo tornare a questione essere dei, benessere sui miei, neanche l'angolo della salute eccetera. vogliamo parlare ancora di migranti, perché insomma la polemica continua sulla questione dei migranti ONG. Il PM, procuratore di Catania Zuccaro, ieri è ancora andato in commissione difesa e ha ribadito, vogliamo anche sentire alcune parole del procuratore Zuccaro di Catania, che cosa ha detto. Un altro filone investigativo per il quale ritengo che sia utile che si possano fornire degli strumenti all'autorità giudiziaria è quello rivolto alla ricerca e individuazione delle fonti di finanziamento delle ONG di più recente costituzione, che dimostrano di operare a volte con mezzi economici assai ingenti. Vabbè, c'è la questione del finanziamento di queste ONG. A Trapani poi si scopre, quindi un'altra procura, che c'è un'altra ONG che è indagata. Non si capisce il nome, pare una ONG straniera. A Trapani l'unica cosa che hanno detto due giorni fa è che non sono d'accordo con tutta la linea di dare pubblicità a queste piste investigative, e quindi sono risolutamente di opinione opposta rispetto al fatto che invece il procuratore di Catania parla. Poi c'è anche Siracusa, si è aggiunto. Sì, c'è anche Siracusa perché, che dice spieghiamolo Catania... perché nel nostro ordinamento ovviamente c'è la competenza territoriale, quindi qualunque porto sbarchino i clandestini portati in Sicilia, la procura e le diverse procure, come vedete, hanno opinioni diverse sulle stesse cose, ma siamo in Italia. Siamo in Italia anche questo. Tra l'altro noi vogliamo salutare Giuseppe Caporale, che è direttore del portale Tiscari.it. Giuseppe, buongiorno. Direttore, buongiorno, ciao. Buongiorno a voi. Ieri voi avete lanciato questa esclusiva parlando del boss degli scafisti, amico dell'ONG, le prove dei contatti. Insomma, sì. Che succede? Diciamo che quello che, insomma, che colpisce è questo racconto che sta emergendo da questa vicenda dell'ONG. Purtroppo, e dico purtroppo perché la vicenda è dolorosa, perché si tratta comunque di aiuti umanitari. Ci sono delle prove a conferma di quello che il procuratore di Catania dice, ma in realtà non si tratta di un'iniziativa del procuratore di Catania, ma in realtà di documenti che a livello internazionale, di Unione Europea e a livello di, diciamo così, governativo girano nel senso che sono dossier che prendono spunto da una serie di verifiche fatte sull'attività dell'ONG e purtroppo gli elementi sono molti, purtroppo. Sì, ma nei confronti di chi? Perché poi il rischio poi di dire, giustamente anche la frase quando dice Zuccaro, non sono tutti filantropi, vabbè, è una frase che dice però e non dice, perché chiaramente non è che tutti possono essere, perché il rischio è stato quello di mettere tutto nel calderone e dire vedete, le ONG sbagliano, che secondo me è un messaggio pericoloso poi da far passare. Allora, io che grazie a questa inchiesta che poi ha fatto Guido Ruotolo su Fiscali, ho avuto modo di leggere questi dossier. Devo dire che capisco anche la posizione del procuratore rispetto al fatto che lui ha una posizione per la quale non può certo svelare contenuti riservati per ruolo, ovviamente. Quello che emerge dalle carte che stiamo pubblicando giorno dopo giorno, ormai siamo al secondo giorno, è che sarebbero stati certificati dei contatti diretti tra gli scafisti e le ONG, soprattutto rispetto al fatto che sono contatti diretti. Vi faccio un esempio su tutti gli elementi e le prove sono diverse. La prova, insomma, ricorrente del fatto che questi migranti salgono su queste imbarcazioni e hanno in mano un cellulare, e molto spesso sul cellulare c'è già il numero dell'ONG da chiamare, quindi viene saltato il contatto con la Guardia Costiera e loro chiamano direttamente il soccorso umanitario. Ma si può dire anche quali ONG, cioè ce ne sono citate? Sono citate in questi ossia, anche perché ci sono delle testimonianze raccolte dagli ufficiali e dagli ispettori italiani che poi intervengono nei soccorsi, che hanno sentito, c'è un migrante testimone, sono stati interrogati alcuni responsabili dell'ONG subito dopo i soccorsi. Insomma, ci sono. Cioè, devo dire, il dossier è molto, molto, molto articolato. Ripeto, noi lo stiamo pubblicando a puntate, però se volete gli esempi, purtroppo ci sono. Questo non significa che tutto il soccorso umanitario segue questa, ovviamente. Poi c'è un altro tema che invece preoccupa sul sistema e getta, come dire, e apre un tema sul sistema, ovvero che questi soccorsi arrivano addirittura a poche miglia dalla costa. Cioè, sostengono le organizzazioni internazionali e le forze militari europee che stanno intervenendo, purtroppo, che le ONG, arrivando troppo vicino alla costa, in qualche modo incentivano la partita. Però su questo Oscar si è molto discusso. Ci sono, Zuccaro parla di alcune ONG, dicono le navi che spengono i transponder. È una polemica purtroppo ha dei fondamenti. Poi è chiaro che non si può fare, però infatti. Purtroppo le prove, ahimè, ci sono. Io non so, io ho un'opinione personale, occupandomi di questioni di sicurezza militare da anni come appassionato, ma anche avendo scritto per anni su riviste di settore, insomma, non insomma, non è che fatico a convincere, non mi convince per niente questa ipotesi, questo conflitto che c'è tra istituzioni italiane è un conflitto che rivela un'opacità dietro la quale però, cari ascoltatori, levatevi dalla testa che l'Italia non sappia che cosa avviene. Dalle parole del procuratore Zucchero si capisce chiaramente che al di là del rapporto Frontex europeo su questo tema ci sono, e al di là oltretutto di quanto da Frontex arriva dalle considerazioni dirette, fatte da mezzi navali militari di altri paesi europei nel Mediterraneo, arrivano anche dichiarazioni e opinioni di ufficiali della Guardia Costiera e della Marina Militare italiana. Esatto. Documenti militari. Quindi, riservati. Allora, detta fuori dai denti, l'Italia sa perfettamente che cosa sta avvenendo. Dietro c'è un interesse dell'Italia per una parte della Libia, quella da cui proviene il traffico, che è quella di Sarraj. Allora, detto questo, siccome questo non si può dire, perché è il non detto della politica italiana in Libia, ovviamente ci vanno quelle dell'ONG, perché mandarci direttamente le navi militari italiane alla Guardia Costiera sarebbe mille volte peggio. Quindi non si potrebbe fare, perché come ovvio gli altri paesi, cioè, del dispositivo europeo, ci direbbero: scusate, ma allora perché siamo qua se fate questo? Allora, un punto numero uno. Per esempio, cosa chiede Zucchero? Zucchero dice: mettiamo sulle navi, anche quelle civili, delle ONG, eccetera, dei nuclei di polizia giudiziaria. Ricordo a chi è in ascolto che quando c'è stato, negli anni di picco delle vicende della pirateria a largo della Somalia, i francesi hanno preso, unica grande marina militare al mondo, una decisione giusta. Hanno considerato gli ufficiali della Marina Militare o della Guardia Costiera francese anche ufficiali di polizia giudiziaria, gli hanno automaticamente esteso questo ruolo. Si potrebbe fare in 5 minuti per evitare i problemi di sovrapposizione di forze, nuclei, eccetera, che sarebbero quelli organizzativi che impediscono di fare quello che ci chiede Zucchero. Faccio questo esempio per dire che non è vero che non si sa come fare, non si vuole fare, un altro paio di maniche. Per esempio, quando ci dice fatemi intercettare, che cosa ci dice il procuratore Zucchero? Non la disponibilità, i mezzi per fare intercettazioni satellitari. Mm. Ecco, domanda, scusate, cari ascoltatori, credete che i nostri servizi non intercettino i telefoni satellitari? La risposta a questa domanda è certo che li intercettano, quindi vuol dire che non si vuole fare. Allora, perdonatemi se io faccio la parte dell'instigatore, però ecco, forse c'è dietro un non detto della politica estera italiana. Però insieme a Giuseppe Caporale, che è con noi, ripeto, direttore del portale Tiscali.it, noi abbiamo chiamato uno degli operatori, un operatore umanitario, in questo caso ONG Intersos, e Diego Pandiscia, che ringraziamo molto per essere con noi. Perché buongiorno, salve. Quello che secondo me non deve passare, appunto, l'abbiamo detto, è il messaggio poi che gli ONG sbaglino. Ecco, e vorrei chiedere a Pandiscia, che in questo momento è a Palermo, no, se tutti questi articoli che ci sono sui giornali in qualche modo come incidono anche sul vostro lavoro di operatori umanitari, che sulle navi siete in servizio a soccorrere i migranti. Cosa ne pensate? Ma sicuramente non fanno affatto bene. Diciamo che in realtà noi siamo comunque i testimoni diretti di una situazione in mare che è una catastrofe. Perché 5.000 persone che muoiono solo l'anno scorso sono quello l'argomento da affrontare, quella è l'emergenza su cui noi ci stiamo concentrando. Dall'altro c'è da fare una premessa: io lavoro per la ONG Intersos, che in realtà è un progetto anche di UNICEF, e noi siamo sulle navi della Guardia Costiera italiana. Certo. Quindi le missioni di salvataggio noi le facciamo con la Guardia Costiera, siamo partner sulla nave. E l'argomento è questo: noi siamo lì a salvare persone che altrimenti morirebbero, punto. Quindi anche queste accuse ci tengono poco, perché in realtà stiamo facendo il nostro lavoro, c'è una crisi, ci sono i morti, è una strage. Sì, siamo è interessante, e non ci sono i mezzi, esatto, anche per rispondere a questa, certo, strage, perché non è solamente questo il problema. Innanzitutto la Guardia Costiera italiana ha anche il controllo in mare, non è che le ONG anche se fossero le navi delle ONG singole, correttissimo, non è che quello hanno che dice, infatti, di questo sanno tutto. Certo, è tutto coordinato, no, ricordiamo, è tutto coordinato dalla Marina, è tutto coordinato dalla Marina Militare Italiana, che con la quale le navi, anche le navi delle ONG, si devono coordinare, ovviamente, a dire interveniamo, eccetera. C'è l'Italia in mare, diciamocelo questo, sì. Non c'è l'Europa, c'è la Guardia Costiera italiana, ci sono le navi private delle ONG, punto. Ci sono migliaia di persone che si tuffano in mare cercando di scappare da una situazione che è catastrofica. Stiamo parlando di una questione di vita o di morte, quindi possiamo anche parlare di altri argomenti, però insomma sono un operatore umanitario, faccio le missioni in nave, ho visto quello che c'è in realtà e abbiamo anche prospettiva. La cosa che ci fa più paura non sono tanto questo tipo di accuse, questo rumore di fondo che io chiamo così, ma in realtà è quello che succederà tra poco, cioè il bel tempo, altre navi partiranno, altri gommoni partiranno e ora inizierà la stagione in cui, se non facciamo qualcosa, se state sui giornali, saranno i soliti articoli di diversa natura e sicuramente anche di uno spessore di indifferenza, no? Però Pandiscia, le chiediamo questo, anche queste polemiche, quanto sarebbe utile anche per voi, come dire, se ci fosse qualcuno che sbaglia? Ci può essere qualcuno che sbaglia anche tra le ONG, no? Ci può essere qualcuno, la frase di Zuccaro, non sono tutti filantropi, quanto sì, farebbe bene anche a tutto il sistema delle organizzazioni non governative, come dire, individuarli, aiutare a isolarli, aiutare a capire quelli che sono da allontanare, no? Che magari non hanno l'interesse che avete voi umanitario a intervenire. Ma guardi, io sinceramente dal mio punto di vista l'interesse è che stiamo salvando vite, quindi a noi interessa avere mezzi e uomini che siano in grado di dare una mano, quindi non credo che ci sia una questione di trovare chi è cattivo, chi ha altre intenzioni. Ci sono le ONG e la Guardia Costiera in mare che cercano di fare il lavoro loro, che è salvare persone che stanno per morire, quindi non vedo tutta questa polemica di dover trovare la mela marcia, che ci sono altre cose dietro. Cioè, in realtà c'è un'emergenza enorme, cioè, parliamo del fatto che l'Europa è blindata, parliamo del fatto che l'emergenza la stiamo creando noi, Europa, parliamo dei trattati con la Turchia, parliamo di quello che stiamo facendo con la Libia, di come si può comportare o si comporterà la Guardia Costiera libica. Cioè, è questo il problema reale. Cioè, nel senso, un po' più di pragmatismo, insomma. Insomma, vede nelle tante polemiche, nei tanti articoli che escono in Italia, un qualcosa che sposta il baricentro della discussione, ecco, mettiamola così. Facciamo che dobbiamo andare un attimo in pubblicità, 2 minuti, poi rientriamo, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, sono le 8:42 minuti, sono anche tanti ascoltatori Oscar che ci vogliono chiamare, poi ognuno legge i giornali e dice, ovviamente ha una sua opinione. Sentiamo quella di Raffaele da Napoli, buongiorno Raffaele. Pronto? Sì. Allora, io ho ascoltato le vostre... i vari interventi, sottolineo come le ONG, Frontex in realtà sta facendo il massimo ed è anche fin troppo poco quello che si sta facendo per il fenomeno globale che stiamo vivendo. Ritengo che forse siamo in un momento di un'ondata in cui, come purtroppo abbiamo vissuto per diversi anni in questo periodo, di cui la magistratura cavalca degli eventi per farsi pubblicità personale, stia nuovamente prendendo un elemento marginale per farne dei casi che possono essere del tutto utili a dei singoli individui. Ma secondo lei, scusi, giusto, cioè, per dirla chiaramente, il procuratore Zuccaro, perché di questo stiamo parlando, che, esatto, interesse, dopo... che interesse personale avrebbe, mi scusi? No, io non lo conosco. Perché, pubblicità. Però penso semplicemente perché in Italia quanti magistrati hanno fatto carriera partendo da inchieste che poi si sono svuotate nel nulla? Ne abbiamo tantissimi. No? Per la verità, l'inchiesta peraltro è a Trapani, l'inchiesta su una ONG indagata. Non so, però Giuseppe Caporale, adesso se vuoi rispondere all'ascoltatore, visto che ci sarebbe un interesse personale. Ovviamente no, ovviamente non c'è da parte del procuratore. Io, avendo letto, diciamo così, le carte di questi dossier militari riservati che appunto abbiamo pubblicato in questi giorni, avendo poi sentito le parole del procuratore, ho capito e sono d'accordo con Giannino l'intento del procuratore. Cioè, il procuratore dice, per fare un'inchiesta del genere il problema esiste, è evidente, non lo diciamo noi, lo dicono i rapporti riservati militari nazionali e internazionali che ci stanno arrivando e che sono pieni, tra virgolette, di elementi, ovviamente elementi che vanno approfonditi perché non possono essere la base di un processo, però ho bisogno di strumenti per indagare. Questo è il punto. Ovviamente laddove non è possibile, io vi dico che il problema esiste. Questa è la posizione del procuratore, che, come ha confermato peraltro sempre a Radio 24 l'altro procuratore Gratteri, è persona nota e stimata nell'ambiente. Sì. Ma, tra l'altro a me ha colpito una cosa, sempre che ha detto sempre questo Zuccaro, e cioè anche ieri nell'audizione ha detto: io no, lo vorrei dire a Pandiscia, non ce l'ho assolutamente con le ONG, ma il mio problema sono i trafficanti di uomini. Che Pandiscia credo che sia il problema di tutti, no? Il problema anche vostro, cioè coloro che speculano sulla vita umana delle persone. Ma certamente, ma il problema è complessivo. Cioè, a me fa un po' ridere che guardiamo un po' questo problema della migrazione, del passaggio in mare. Cioè, il problema è marginale. Il viaggio che i migranti affrontano è un viaggio che dura anni, e i trafficanti di esseri umani sono trafficanti che partono dall'Africa. Ci sono vari passaggi, l'ultimo passaggio è quello in nave. Quindi a me fa anche un po' ridere quando dicono: ah, ma la presenza delle navi delle ONG che sono in mare aumenta il flusso dei migranti. Non è vero. Cioè, i migranti affrontano una permanenza in Libia che sicuramente è addirittura più mortale della tratta in mare. Quindi affrontano delle cose per anni, perché non è un viaggio che ci si mette 30 giorni, ci si mette anche un anno e mezzo per affrontare tutto quello che devono affrontare, che è una tortura costante di un viaggio attraverso il deserto. Poi c'è la zona instabile della Libia, che è una cosa aberrante, infernale. Poi infine c'è l'ultimo passaggio in mare. Quindi io non capisco questo continuare a soffermarsi su particolari, e per arrivare a dire cosa? Che alcune ONG sono attive, e ci dimentichiamo di parlare che l'Europa dovrebbe stare a fare il suo dovere come stati europei, perché la storia ci giudicherà. Tra qualche anno avremo un numero di morti in mare che cresce sempre di più, e a quel punto tutte queste conversazioni saranno, come dire, marginali. C'è un problema enorme, c'è un flusso di persone disperate che muore e che sta cercando di arrivare in un'Europa che è blindata, si ritrovano bloccate. Quindi che sia il mare, sia cercare di trattenerli in Libia, sia cercare di trattenerli con i trattati con la Turchia, cioè stiamo semplicemente tenendo lontano flussi di persone che si spostano comunque, disperati, e semplicemente li stiamo mantenendo lontani dal territorio, dal perimetro europeo, per questo, non vedere, e quindi per non dover parlare. Su questa Europa blindata, prima che Oscar aveva qualche perplessità, insomma, non mi sembra che no, sia, ma io, siccome non voglio alimentare, ecco, equivoci, sto zitto oggi, perché non c'è alternativa. Cioè, mi perdoni, io capisco il suo punto di vista, ed è vero che siamo in presenza di un fenomeno biblico, gigantesco, che travolge vecchi criteri degli stati-nazione, delle barriere. Insomma, voglio dire, ho sempre criticato chi crede nell'illusione di erigere muri, per di più in acqua, e fottersene di chi muore e non capire cosa c'è dietro. Questo è un punto sul quale chi ha testa e ha sensibilità per gli eventi storici di portata epocale non può che condividere. Questo però, mi perdoni, per me come giornalista non può significare stai zitto e non poniti il problema di che cosa avviene negli ultimi mesi che non avveniva prima, quando la presenza in mare del dispositivo controllato dal pubblico era decine e decine di miglia più arretrato rispetto alla linea delle acque territoriali libiche, perché questo è così. Il fenomeno è cambiato perché c'è stato un dibattito europeo, c'è stato un rafforzamento delle forze in campo anche europee, non sufficiente, ma è stato così, e con la giustificazione dichiarata di limitare il numero tragico di morti in mare, ci si è avvicinati al limitare delle acque libiche. Avvicinarsi al limitare delle acque libiche, però, sono i soggetti di un tipo e non i mezzi militari italiani. Come mai il mio mestiere come giornalista è pormi il problema? Perché sa, io parto dal presupposto che i militari italiani e quelli degli altri paesi lì vedono tutto, perché basta a un privato, se spende 300 euro al mese, vedere dove stanno i transponder delle navi e capire che navi sono. Quindi questa faccenda prima c'era e oggi no, e io mi devo interrogare sul perché. Perché a quel punto so che per le leggi del mare andare a prendere lì significherebbe doverli portare in Tunisia o a Malta, invece li portiamo in Italia, e mi devo chiedere perché, ma non perché pormi queste domande, glielo voglio spiegare a lei, operatore, di cui io stimo in maniera assoluta quello che fa e quelli come lei che fanno tutte queste cose per salvare vite, ma il mio mestiere è capire e spiegare, tentare di farmi spiegare dalle fonti ufficiali italiane questi cambiamenti, se avvengono per una cosa che non ci è chiara. È la mia impressione, vista la politica estera italiana e il fatto che gli impianti dell'ENI siano nella dorsale occidentale della Libia, quella in cui non a caso noi sosteniamo Sarraj e non Haftar, che sta in Cirenaica, possano essere collegate queste cose. Sono le stesse domande che fa il procuratore quando dice: datemi i mezzi per capire quello che vedo solo sulle spie di un certo tipo di navi che fanno il loro mestiere, salvano vite umane. Ma la domanda è: se siamo andati lì a prendere, dove prima non andavamo, è per salvarle? Sì, ne salveremo di più, però a questo punto lui dice: davvero ci sono i contatti? Se alcuni militari italiani dicono ci sono i contatti, li abbiamo sentiti, i telefonini in alcuni casi c'hanno i numeri lì e si buttano oppure no a seconda di chi sia l'interlocutore della chiamata, e il procuratore aggiunge: tutte testimonianze che io non posso acquisire perché non sono indagini autorizzate dalla magistratura, né sono membri della polizia giudiziaria, gli ufficiali della Marina e della Guardia Costiera che riferiscono di queste cose. Quindi stiamo parlando in termini istituzionali, come vede. Ecco, io mi dico semplicemente che ho rispetto assoluto e condivido il suo punto di vista. Il nostro mestiere è fare domande e tentare di capire se nella politica italiana ed europea ci sia un non detto grande come una casa. Tutto qua, e spero che sia chiaro, non c'è nessun equivoco. No, ma l'ho detto, è la questione dell'ENI, cioè tu l'hai detto chiaramente, insomma, cioè gli interessi economici da difendere. Che sono da sempre un grande non detto italiano nella politica estera, lì insomma lo sappiamo che è così. C'è Marco che ci chiama da Milano, buongiorno. Marco. Salve, ciao, sono Marco da Milano. Sì. Allora, rapidamente, sinteticamente. In primo luogo, io sono abissalmente contrario a quello che diceva il vostro ospite. E ti spiego anche, vi spiego quale, anche rapidamente. Quale ospite? Perché insomma, ci dica che cosa è contrario. Dell'ONG. Va bene, il salvatore okay. di naufraghi di vite in mare. Allora, io con l'Africa ci lavoro. Adesso sinteticamente non posso spiegare perché, nel settore delle costruzioni con l'Africa ci lavoro, sono anche sovente sì. là. C'è un desiderio diffuso di quelli che noi chiamiamo migranti economici di venire in Europa, non necessariamente in Italia, molti in Inghilterra e in Francia, sì. soprattutto per stare meglio, per sbarcare meglio in mare. Quindi certo. se il concetto è quello di dire dobbiamo cercare di salvare tutti quelli che vogliono venire in Europa, allora onestamente fate un ponte aereo, svuotate l'Africa, perché il desiderio della maggior parte degli africani, io lo vedo sui cantieri, potrei spiegare mille cose che adesso evidentemente non c'è tempo, è quello di cercare di venire qua e stare meglio. Il tema di fuggire dalle guerre c'è, ma è minoritario. Quindi se non capisco. Svuotiamo l'Africa, ma questo non è il punto principale che volevo dire. Il secondo invece è economico. Allora, mettiamo insieme le informazioni che voi stesse come Radio 24 accortamente avete dato. Allora, si parla quasi sempre di 200.000 migranti all'anno che arrivano in Italia. Ognuno di questi è una notizia. Seconda notizia che voi avete dato, ognuno di questi migranti paga da 6 a 10 mila euro. Fate la moltiplicazione, arrivate da 1 miliardo 200 milioni a 2 miliardi di euro di giro d'affari. Questo è il business. Questo è il business. In mano all'ISIS. Questi sono soldi che finiscono in mano all'ISIS. E questo allora, è il business dei migranti, purtroppo. Questo è un tema, specula- quindi certo, me, lo speculare sulle qua che finiscono in mano all'ISIS, qualcuno anche, è umano anche che qualcuno ci pilucchi dentro, e la mia opinione personale, che magari è minoritaria, è se io devo spendere 2 miliardi di euro per salvare i profughi, devo finire i soldi in mano all'ISIS, purtroppo arresto le navi, non lo faccio, non sarà un'opinione minoritaria, sì, chiaro, ma vabbè, è la sua opinione, Marco, noi come sa siamo aperti a tutte le opinioni di qualunque tipo e quindi è la sua opinione. Noi in realtà ci dobbiamo fermare qui perché non abbiamo più tempo. Grande spazio, ma vogliamo ringraziare Diego Pandiscia, operatore umanitario InterSOS, perché lo diciamo sempre e lo ribadiamo anche oggi, insomma siamo sempre dalla parte comunque del lavoro, dell'intervento umanitario che è preponderante al di là della polemica. Ogni morto di troppo. Così come ringraziamo Giuseppe Caporale, direttore del portale Tiscali.it, che pubblica appunto questi. E buon lavoro, perché fanno buon lavoro. Buon lavoro. Che dire, caro Oscar? Che dico? Adesso sai com'è? Ti propongo domani di parlare delle rapine di notte, perché no, perché che il legislatore gradui la differenza a seconda delle ore in cui avvengono le rapine. Se uno è tutto. Un metro notte, e per lui il giorno è la notte, per adesso cui l'articolo 52 del codice penale cambia a seconda dell'ora del giorno. Ma voglio dire, ma cosa cazzo bevono alla camera? No, aspetta. Ma cosa bevono? Ma soprattutto, se uno, ben posto questo problema, è giorno, ma tiene giù le tapparelle, quindi per lui è ha voluto privarsi della luce, e no, allora non è un illuminato, non vale. Il problema è per un tassista che lavora di notte e per lui il giorno è la notte. Questo, ma cosa vuol dire? Io non tribunale. Vedo un pifro, sono una talpa, allora per me è notte sempre. Ma che razza di codice è? Ma roba da male. A domani.